Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per me è un grande privilegio non fare il segretario del PD, non fare il presidente del Consiglio dei Ministri, non essere dirigente di un paese che è un grande onore essere parte di una comunità che sta rivoltando l'Italia come un calzino. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'Italia come un calzino rivoltato, praticamente la conoscevamo come uno stivale fino a qualche tempo fa, effettivamente sotto lo stivale è probabile che ci sia anche un calzino, un calzettone quantomeno, e Renzi siete soddisfatto del fatto di appartenere a chi lo sta rivoltando. Parleremo anche di politica, ma inizieremo prima con la cronaca, perché è una settimana questa che comincia piena zeppa di notizie, anche molto brutte. Il bambino ucciso vicino Ragusa in Sicilia, strangolato, e poi capiremo. Cercheremo di capire anche quali sono altri possibili elementi di questa tragedia. E poi l'ennesimo femminicidio, ormai è una cosa di routine, ogni 48 ore, diceva pochi giorni fa il rapporto Eures, avviene un femminicidio. In questo caso c'è un ulteriore particolare, cioè l'uomo che ha ucciso l'ex moglie ha anche postato su Facebook, come si dice, ha messo su Facebook degli insulti nei suoi confronti, dicendo finalmente sei morta, aggiungendo una parolaccia tipica che molti uomini rivolgono alle donne. Capiremo anche come è possibile che centinaia di persone gli abbiano messo mi piace, il like, come si dice su Facebook. Parleremo anche di questo e poi ci occuperemo di politica, in particolare con la Lega, perché il segretario Salvini non ce l'ha più con il Sud, ha detto no, anzi l'Italia se vuole riprendersi deve essere tutta unita, tutta intera, insomma una novità assoluta sulla quale vi chiedo di riflettere, se volete di esprimere le vostre opinioni attraverso i due canali di sempre qui Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire con entusiasmo, e poi gli sms al 349-238-6666 349-238-6666 per dire la vostra opinione su questo cambio di rotta della Lega. Che ne pensate? Intanto vi racconto la giornata. Il bimbo ucciso a Ragusa, secondo il medico legale il bambino è stato strangolato, mentre restano dubbi sulla violenza sessuale. Uccide la moglie e la insulta su Facebook, arrivano centinaia di mi piace e di condivisioni. Vaccino antinfluenzale, l'agenzia per il farmaco conferma, non presenta nessuna contaminazione. Riforme, Renzi vuole accelerare sull'Italicum e chiede il voto alla direzione del PD che approva ma non vota la minoranza. E Renzi avverte, attenti alla nuova destra. Lega Nord, Salvini cambia rotta e dice sul Sud abbiamo sbagliato. Qualità della vita, secondo la classifica del Sole 24 Ore, a Ravenna si vive meglio, Milano intanto risale. Il calcio, partita di Serie A tra Sampdoria e Napoli, e la FIFA annuncia i tre finalisti per il pallone d'oro. Partiamo quindi, vi dicevo, da questi fatti terribili di cronaca. Il primo riguarda il bimbo ucciso vicino Ragusa, strangolato e poi gettato in un canale. È stato prelevato davanti alla scuola, probabilmente da qualcuno di cui si fidava, che conosceva, che poi lo ha ucciso. Gli inquirenti non hanno escluso comunque al momento nessuna ipotesi, e però, come dicevo, di questo poi parleremo più tardi. E c'è anche il nuovo ennesimo femminicidio avvenuto vicino Salerno. Un uomo di 32 anni, vi dicevo, che ha ucciso con un coltello per lavori agricoli l'ex moglie, erano separati da qualche anno, litigavano per tenere la bambina, e lui ha messo poi un post su Facebook scrivendo sei morta troia, ecco questa è la parola, ha ricevuto centinaia di mi piace. Anche questo è un tema che approfondirò dopo con, se lo raggiungiamo, il presidente degli psichiatri italiani. E parliamo anche dei vaccini bloccati per le morti sospette. I primi test effettuati su due lotti Fluad bloccati hanno dato esito completamente negativo, confermata quindi la sicurezza del vaccino antinfluenzale. Ad annunciarlo, dopo le anticipazioni della ministra Lorenzin, sono l'Agenzia Italiana del Farmaco e l'Istituto Superiore di Sanità. Le segnalazioni di morte sospette però intanto continuano a salire. Oggi sono arrivate a 19 per l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco. Ciò è dovuto alla maggiore sensibilità degli operatori sanitari e della popolazione al fenomeno a causa della mediaticità, dice, degli eventi di questi ultimi giorni. Nessuna correlazione provata, nessuna evidenza scientifica che le morti sospette di questi giorni siano legate alle vaccinazioni. Le rassicurazioni arrivano dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Le prime analisi tossicologiche effettuate sui vaccini antinfluenzali Fluad appartenenti ai lotti bloccati dell'AIFA, scrivono in un comunicato, risultano completamente negative. Mancano invece gli esami batteriologici, per i quali i tempi sono più lunghi. Rassicura da Bruxelles, dove partecipa al Consiglio UE della Sanità anche il ministro ministro Beatrice Lorenzin, possiamo tirare un sospiro di sollievo. I lotti esaminati non presentano nessun tipo di contaminazione e hanno tutti i requisiti necessari per l'AIC, cioè per l'autorizzazione di immissione in commercio. Una notizia estremamente confortante e rassicurante per tutti. L'effetto panico, ammonisce poi il ministro, va assolutamente scongiurato. L'anno scorso per l'influenza, ricorda, ci sono stati 8.000 decessi ed erano persone non vaccinate. Intanto arriva la notizia che non c'è nessuna relazione tra il vaccino anti-influenzale A grippale e la morte venerdì scorso a Cuneo di un uomo di 68 anni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E siamo sulla politica. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi torna a chiedere un nuovo impulso al Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Chiede alle istituzioni europee più coraggio il Presidente del Consiglio Renzi e lo fa dall'Aula del Senato. Più coraggio nelle politiche economiche, perché va bene la stabilità nei conti, dice il Premier, ma è necessario accelerare sulla crescita. Da qui la richiesta di Renzi perché anche il piano del Presidente Juncker abbia meno timidezza sugli investimenti. Occupazione e crescita devono essere al centro del dibattito europeo, aggiunge il Ministro dell'Economia Padoan. L'Europa si trova di fronte a un bivio: o continua a strisciare in un sentiero di crescita non sufficiente, oppure prende delle decisioni importanti per imboccare sentieri di crescita più sostenuti. L'emergenza occupazione in primo piano anche per il sindacato. I posti di lavoro non si creano con le leggi, dice però dalla CISL Anna Maria Furlan. Per creare posti di lavoro bisogna ripartire invece dagli aspetti strutturali e quindi ripartire dalle grandi opere, ripartire in investimenti per innovazione e ricerca. CISL in piazza per lo sciopero degli statali. Va riaperto il tavolo sui contratti, dice ancora la Furlan. Il Jobs Act è sbagliato, commenta quindi la Camusso. CGIL è costruito, spiega, su una promessa al paese che non trova riscontro nel testo approvato alla Camera. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi, come ci dicevo, c'è stata la direzione del PD. La vera sfida per Renzi a questo punto è quella con Matteo Salvini. Preoccupa l'astensionismo, ma non troppo preoccupa più la destra leghista. Il premier Matteo Renzi interviene in direzione PD per analizzare il voto in Emilia-Romagna e in Calabria. La vera sfida è quella con Matteo Salvini. C'è una destra che gioca la carta della preoccupazione per l'immigrazione in modo spregiudicato, eppure la Lega gioca quella carta lì, la gioca in modo spregiudicato, la gioca perché probabilmente nelle nostre periferie possiamo e dobbiamo fare di più. Grillo invece non preoccupa più. Il PD è anche il Partito Democratico che ha sostanzialmente fatto saltare Beppe Grillo, non dimentichiamocelo, perché altrimenti sembra che Grillo si sia stancato. Se si è stancato lui, figuriamoci quelli che l'hanno votato quanto si sono stancati. Ma Renzi offre comunque ai grillini la possibilità di fare le riforme insieme, anche perché boccia la proposta di Silvio Berlusconi di fare prima l'elezione del Quirinale che la legge elettorale. Continua poi a combattere la sinistra Dem, difende il Jobs Act e avverte: se fossimo tutti uguali non saremmo il PT, non saremmo il Partito Democratico, saremmo il partito monocorde. Il dibattito congressuale lo faremo nel 2017. Nel frattempo io vorrei che tutti insieme cambiassimo l'Italia. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E adesso parliamo appunto di Lega Nord con il cambio di rotta di Salvini. Quando a Pontida Matteo Salvini, non ancora segretario della Lega e soprattutto non ancora compagno di danze di Marine Le Pen, intonava questi cori contro i napoletani. Oggi ha cambiato idea. Il Sud Italia non è più il nemico numero uno. L'emergenza disoccupazione, ha detto, è tale a Milano come a Taranto. Adesso sono straconvinto che l'Italia o si salva tutta da nord a sud o non ce n'è per nessuno. La Lega quindi ha fatto pace con il Mezzogiorno, il mito della Padania tramonta anche nelle urne, pure il termine terrone è stato messo in soffitta. Ora i nemici numero uno sono gli stranieri, i rom, i profughi. L'immigrazione, ha detto Salvini, fuori controllo, crea caos sociale. Cosa mi ha fatto cambiare idea sui meridionali? Sono i fatti, probabilmente, dice Salvini. Il sud lo conoscevo poco, fatto e abbiamo fatto degli errori, ha ammesso il leader della Lega, che sulle riforme dice no a Renzi, ma apre a un confronto sul lavoro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora spostiamoci all'estero. Intanto, se volete continuare a scrivere i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effettonote, sia attraverso i sms al 349-238-6666 su questo cambio di direzione del segretario della Lega Salvini, continuate che poi dopo ne leggerò qualcuno. Dicevo, spostiamoci all'estero con Hong Kong. Leader studentesco del gruppo Scolarism, Joshua Wong, divenuto uno dei volti più noti dell'Umbrella Movement, che da 2 mesi chiede il pieno suffragio universale a Hong Kong, ha annunciato questa sera di aver iniziato uno sciopero della fame a tempo indeterminato insieme ad altre 2 studentesse. E occupiamoci anche dell'epidemia di Ebola. Finora sono 22 i pazienti trattati fuori dall'Africa, compreso il medico italiano di Emergency ricoverato allo Spallanzani di Roma. Nella maggior parte dei casi si tratta di operatori rimpatriati dopo essersi ammalati prestando servizio nei paesi più colpiti, mentre pochissimi sono i contagi avvenuti sul suolo europeo o statunitense. Poco prima di partire per l'Italia aveva parlato con una delle sue 2 figlie. Stai tranquilla, è tutto sotto controllo. Poi il viaggio e il ricovero allo Spallanzani di Roma il 25 novembre scorso. Da quel giorno l'attenzione è massima ai bollettini medici quotidiani. Sì, perché l'Ebola fa paura e Fabrizio, medico 50enne siciliano esperto in malattie infettive, l'ha contratta in Sierra Leone, dove era arrivato il 18 ottobre insieme a Emergency per la sua prima missione in Africa. Circa un mese dopo i primi sintomi e il rientro nella capitale. Stava abbastanza bene, ha cominciato i trattamenti ben tollerati, poi da venerdì scorso il peggioramento, nausea, vomito, febbre, dolori e l'inizio del terzo trattamento sperimentale. Al farmaco antivirale, al plasma di pazienti guariti dal virus è stato così aggiunto un farmaco che agisce sulla risposta immunitaria. Ieri le condizioni risultavano stabili, oggi ancora un lieve peggioramento, anche se il paziente è autosufficiente e risponde alle domande, si legge nel bollettino medico. La prognosi resta riservata. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche di qualità della vita, ne parleremo più diffusamente dopo, perché è uscita la 25esima classifica del Sole 24 Ore. A conquistare il primo posto per vivibilità nelle province italiane è Ravenna in Emilia Romagna, all'ultimo gradino c'è Agrigento, mentre Milano risale pian piano, quindi cercheremo di capire quali sono i parametri in base ai quali sono state scelte queste città. Nel frattempo capiamo i parametri della partita in corso di campionato di Serie A con Dario Ricci. Dario? Beh, direi, Roberta, buonasera. Parametri stazionari perché siamo al 15° del primo tempo a Marassi tra Sampdoria e Napoli, il risultato ancora fermo sullo 0-0, finora ben poco da segnalare se non una occasionina, chiamiamola così, una mezza occasione per il Napoli, un cross dalla destra, Gulam che è andato alla deviazione probabilmente di spalla e ha messo fuori di poco. Fase di studio 0-0 al 15° a Marassi tra Sampdoria e Napoli. Grazie Dario Ricci, poi ci aggiorneremo a mano con la partita, capiremo anche quali sono i 3 finalisti del Pallone d'Oro e quale ha più probabilità anche di vincerlo. Intanto volevo vedere ancora qualche vostro messaggio, per esempio c'è un ascoltatore che al 349-238-6666 sull'Italia rivoltata come un calzino, come dice Renzi, è Giulio che lo scrive: peccato che il calzino sia molto sporco, puzzolente e rotto, insomma una visione molto cupa dell'Italia del calzino. Davide: Renzi non è anche fiero di prendere il tè col bianconiglio, qui citiamo Alice nel Paese delle Meraviglie. Però invece sulla pagina Facebook a proposito di Salvini e del suo cambio di direzione sul sud, Elena dice: è molto furbo. Chiara: che è un genio, sta rastrellando senza vergogna i milioni di voti persi da Forza Italia e Movimento 5 Stars, e ci riuscirà visto che lo lasciano solo in campo. Alessandra: penso che Salvini stia tentando un'altra possibilità, più soluzioni. Alberto scrive: viva Salvini. Franco: Salvini, Garibaldi ha scoperto l'Italia. Potete continuare a esprimere le vostre opinioni, ne parleremo tra un po' di politica e di Salvini, e tra poco invece sulla cronaca. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi con voi, guardavo ancora i messaggi, però prima vi racconto quali sono, ve lo riepilogo se non le ricordate o se avete acceso la radio in questo momento, ricordatevi di essere puntuali sempre alle 21, però visto che sono qui vi ricordo i titoli principali. Renzi alla Conta in direzione PD, dice acceleriamo sull'Italicum. Intanto per quanto riguarda il Quirinale, fa sapere Napolitano, le dimissioni, la valutazione è separata dalle riforme, ma non prima della fine del semestre italiano di presidenza europea. Poi il caso del piccolo Loris, strozzato e gettato nel fosso vicino Ragusa, conosceva l'assassino, dicono i PM, e l'accusa è di sequestro e omicidio, ma dicono di non creare l'allarme mostro. Negativi tutti i test per i vaccini, si sgonfia l'allarme vaccino. La ministra Lorenzin dice questo è un sospiro di sollievo, ma spuntano intanto nuovi casi di morte sospette. E poi il femminicidio, uccide l'ex moglie, la insulta su Facebook, arrivano centinaia di like, intanto l'account dell'omicida è subito oscurato, però non spiega intanto il motivo del gesto. Pare tra l'altro che ci sia una nuova tappa, una nuova puntata del giallo della morte di Pasolini a 40 anni dell'omicidio. Indagine della Procura di Roma potrebbe riscrivere la verità sulla notte del 2 novembre del 1974. Poi una polemica che nasce nei confronti del presidente della regione della Toscana Rossi, il governatore fa la foto con i Rom, scoppia il caso sul web, su Facebook lui con la foto, ecco i miei vicini, dice, plausi arrivano e anche insulti. E poi parte la corsa al pallone d'oro, ne parleremo più tardi. Ora invece, come dicevo, occupiamoci del caso del bambino di 8 anni, Loris Stival, che è stato trovato morto sabato nel Ragusano a Santa Croce Camerina, in Sicilia. Gli inquirenti non hanno escluso nessuna ipotesi per il momento, l'unica cosa certa è che il piccolo Loris è stato strangolato. Il procuratore di Ragusa, Carmelo Petralia, che ha aperto un'indagine per sequestro di persone e omicidio volontario, ha smentito per il momento che siano stati riscontrati segni di violenza sessuale. Sentiamolo in conferenza stampa. Lo stato delle indagini in questo momento ha consentito di poter individuare la causa della morte del bambino in asfissia da strangolamento, alla quale è seguita, si potrebbe dire, nell'immediatezza, quasi subito dopo, una precipitazione dall'altezza di 2 metri, 2 metri e mezzo, e quindi anche questo può rientrare tra le cause della morte o essere un fatto immediatamente successivo. Comunque, per parlare in termini un po' più chiari, il bambino è stato strangolato. E questa pare l'unica cosa certa, però pare che ci siano delle piste privilegiate, Raffaella Calandra, è vero? Ciao Raffaella. Ciao Roberta, buonasera. Sì, sono stati gli stessi inquirenti a confermare che anche se le indagini sono tutte aperte, c'è almeno una pista privilegiata che stanno seguendo, ed è questa molto probabilmente anche la ragione della loro cautela in tutto. Questo per dire che l'autopsia non ha confermato la violenza, gli abusi su Loris, però allo stesso tempo non si può ancora escludere, saranno fatti degli altri esami per verificare che cosa effettivamente sia successo prima della morte del piccolo Loris. È un'indagine estremamente complessa, però gli inquirenti, da quello che trapela nella gestione di una indagine appunto così delicata, così complessa, che deve tener conto oltre della gravità del fatto anche del grande shock in questo momento della comunità, allo stesso tempo sembrano cautamente fiduciosi nel fatto di poter arrivare abbastanza velocemente a individuare il responsabile di questo delitto e a dare anche quella risposta di giustizia che tutta quanta la comunità di questo piccolo centro del Ragusano chiede. Quindi sì, c'è una pista privilegiata, all'inizio c'è una voce di sospetto, un'aura di sospetto ha circondato il cacciatore che ha trovato il corpo di Loris, che è stato interrogato ma esclusivamente come persona informata sui fatti dai magistrati, la sua auto è stata sequestrata. Non ci sono indagati in questo momento nel fascicolo, è evidente che l'attenzione che in qualche modo gli inquirenti hanno voluto riservare a lui, anche per ricostruire le varie tappe del momento che è stato al ritrovamento del corpo di Loris, ha creato in dubbio un'aura di sospetto intorno alla di questo cacciatore, ma in realtà non ci sono elementi al momento più precisi a suo carico, e allo stesso tempo anche la comunità sembra difenderlo. Io ho sentito il sindaco che ha detto la sentiamo allora, scusa Raffaella se ti interrompo, la sentiamo la sindaca che avevi sentito di Santa Croce Camerina, Francesca Iuliato. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, sta condividendo il lutto, però gli inquirenti stanno continuando. Io penso che possa essere una sola persona e quindi soprattutto con questo allarme i genitori staranno molto più attenti. Se magari i bambini si lasciavano a 10 metri dalla porta, si usciva più, al momento c'è molta più attenzione. Non... sicuramente la mia non è la comunità a cui appartengo, non è una comunità omertosa, e quindi si invita alla collaborazione e penso, come già è stato fatto, chi ha trovato il bambino. Lei lo conosce questo signore che ha trovato il bambino? Sì, è un cittadino che ha dato l'esempio collaborando. Ovviamente ha fatto la più tragica delle scoperte. Che lei sappia, è una persona che comunque conosce anche i genitori, la famiglia del bambino? Ma penso che Santa Croce ci conosciamo tutti. Questo è quello che ha detto la sindaca di Santa Croce Camerina a te, Raffaella Calandra, no? Sì, appunto, e come abbiamo sentito, allora, questo, il fatto che nella comunità si conoscano tutti, in questo momento sta creando ancora di più sospetti all'interno della stessa comunità che sta vivendo queste ore di angoscia, mi ha detto anche il parroco del paese, anche per la paura di poter scoprire dietro il volto amico di una persona conosciuta invece il responsabile di un delitto così terribile. Però, come dicevo, diciamo, in questo momento non ci sono dati concreti contro il cacciatore che ha trovato il corpo di Loris, ma semplicemente, come è doveroso, è stato ascoltato anche perché è stato lui a trovarlo. Ci sono però delle cose, degli elementi che non quadrano nella ricostruzione in questo momento in mano agli investigatori, però bisogna anche capire che quanto trapela è estremamente è difficile riuscire a far trapelare degli indizi più concreti, anche perché sulla gestione di indagini di questo tipo è tutto ancora più complicato. È delicato, certo, bisognerà vedere nelle prossime ore. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. Ciao. E restiamo sulla cronaca nera. Vi dicevo all'inizio di questo ennesimo femminicidio, ormai diventa una frase fatta, ennesimo femminicidio. Vi dicevo del rapporto Eures, di cui si è parlato proprio qui effetto notte qualche giorno fa, che certifica che avviene ogni 48 ore l'uccisione per mano di un uomo nei confronti di una donna, di solito il partner, marito, ex marito, eccetera, o fidanzato, ex fidanzato. In questo caso, tra l'altro, questo delitto che si è consumato domenica sera a Postiglione, vicino Salerno, nella casa di Maria D'Antonio, 34 anni, ai suoi danni, uccisa dall'ex marito Cosimo Pagnani, di 32 anni, erano separati da anni e litigavano per la gestione della bambina. La donna è stata uccisa con diverse coltellate, un coltello da lavori agricoli, e l'uomo poi ha messo un post sul suo profilo Facebook che annunciava la morte della donna. Non si capisce se l'ha messa prima come annuncio, se l'ha messa dopo come presa d'atto di soddisfazione, dicendo sei morta, e usando l'epiteto classico che molti uomini usano nei confronti delle donne, sei morta Troia, questo è quello che ha scritto. L'uomo poi è stato arrestato, accusato di omicidio volontario. Su questo caso vorrei, ma l'altra cosa particolare, poi vi dicevo che sono arrivati centinaia di mi piace, come si usa su Facebook per cose di tutt'altro tipo, no? Per qualcuno che approva, che condivide. E allora vorrei coinvolgere il professor Claudio Mencaci, che è psichiatra e presidente della Società Italiana di Psichiatria. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Quindi, ben trovato professore, ne parliamo continuamente, almeno anche qui a effetto notte. Questo ha una particolarità in più di uno che si prende la soddisfazione di scriverlo, e poi c'è tanta gente che fra l'altro condivide, che dimostra senso. Che cosa ne pensa lei? Il commento che va fatto è che tristemente si stanno raggiungendo le quote dello scorso anno, 177 donne uccise, e quest'anno speriamo che non si raggiungano queste cifre, ma dice come di fatto la prevaricazione e il disprezzo regna ancora sovrano, perché in questa condizione l'aver postato una frase di questo genere, che indipendentemente che sia prima o dopo descrive quelle che erano le intenzioni dell'omicida, e che centinaia di persone ormai confuse tra realtà e virtuale dicano mi piace, questo ci dice quanto è forte il disprezzo nei confronti delle donne e quanta poca importanza si dà ormai a delle espressioni di violenza e di aggressività. perché insomma dobbiamo vedere le cose, poter dire a una qualunque persona che può essere risentita, arrabbiata per essere stata lasciata così via, ma sei morta con l'epiteto che lei ha riportato, ma questo in ogni caso è inaccettabile. È inaccettabile che ci sia una comunità che condivida che questa violenza sia un patrimonio comune, che anche se è virtuale, ma non può essere neanche raccontato né tantomeno postato. Ecco, questo ci dice però quanta strada ancora dobbiamo fare e come, quanta forte sia la difficoltà di riconoscere che esiste la prevaricazione, la cattiveria e la crudeltà tra di noi, in tutti i fatti, sia nei confronti delle donne che dei bambini. Professore, infatti lei poi si riagganciava al fatto di prima di Loris, del bambino in Sicilia. Senta, ma tra l'altro questo fatto ricorda infiniti altri, ma anche uno in particolare accaduto di recente a Motta Visconti, vicino Milano. Si ricorda di quell'uomo che ha ucciso la moglie e i figli, due figli, e poi si è andato a vedere la partita della nazionale, no? È come se volessero ritrovare immediatamente la normalità, come se in realtà nulla fosse avvenuto. Certo, ma è l'idea di fondo che non solo certi atti siano ormai diventati come dire, a livello di tolleranza, che non si sente da nessuna parte un rimorso morale di quello che accade, perché? Perché in primo luogo viene la soddisfazione personale, ma di fronte a questo non riusciamo a riconoscere che le persone sono in grado di mettere in atto comportamenti così crudeli, violenti e malefici senza aver nessun disturbo, non hanno nessuna malattia. Quello che deve essere chiaro è che queste persone sono drammaticamente sane, cattive ma sane. E questo è ancora questo più preoccupante, professore, perché si pensasse sono certo. Pazzi, dovrebbero essere casi individuali. Ma questo è un alibi che viene dato, che non si meritano, perché le persone che soffrono di disturbi mentali hanno bisogno di cure, dobbiamo avvicinarle alle cure, e sono normalmente vittime, non autori, mentre qui sono persone terribilmente sane e della loro sanità ne fanno un motivo di crudeltà, di violenza e di sopraffazione. Insomma, considerano le persone oggetti a favore o contro se danno fastidio e rappresentano un peso, vedi il caso di Motta Visconti, oppure non si può tollerare che ci si possano separare o allontanare da noi perché sono un oggetto e un possesso. Come in questo caso. Su questo dobbiamo essere molto chiari. Tolleranza zero su questo. Ringrazio molto professor Claudio Mencaci. Grazie. Buona serata. Grazie a voi. Grazie professore. Prendiamoci a questo punto questa pausa di riflessione, è il caso di dire. Poi dopo invece parleremo di politica, parleremo, dicevo, del cambio di rotta di Salvini, che dice in realtà l'Italia si deve salvare tutta insieme, quindi non è più il mezzogiorno, che è la zavorra, che si deve staccare. Cosa ne pensate? Stanno arrivando i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Note e attraverso gli SMS al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ancora sono molti messaggi che stanno arrivando rispetto al cambiamento di rotta, dicevo, del segretario della Lega Salvini. Per esempio Marco Dorovigo dice: ma gli slogan di Salvini Lega solo l'anno scorso non era prima il Nord? Umberto invece scrive: Salvini è un tipico esempio di faccia deretanismo politico, il nemico contro il quale alzare l'odio popolare, identifica in funzione del bacino elettorale, ieri da partito regionale il meridionale, oggi studiando da premier il Rom o l'immigrato. Resta costante l'odio come target, dice Umberto. Ci sono molti altri messaggi. Intanto vi riassumo le notizie del giorno. Il bimbo ucciso a Ragusa, secondo il medico legale il bambino è stato strangolato, mentre restano dubbi sulla violenza sessuale. E poi un uomo che uccide la moglie e la insulta su Facebook, arrivano centinaia di mi piace e di condivisioni. Vaccino antinfluenzale, l'agenzia per il farmaco conferma non presenta nessuna contaminazione, però vedevo poco fa un aggiornamento, un'altra notizia di un'altra morte sospetta a Rimini 60 ore dopo il vaccino. E poi per le riforme, Renzi vuole accelerare sull'Italia come chiede il voto la direzione del PD che approva, non vota però la minoranza, e Renzi avverte: attenti alla nuova destra. Lega Nord, l'abbiamo appena detto, che Salvini cambia idea e dice: sul sud abbiamo sbagliato. Qualità della vita, secondo la classifica del Sole 24 Ore, a Ravenna si vive meglio mentre Milano risale. Per il calcio, partita di Serie A tra Sampdoria e Napoli, e la FIFA annuncia i tre finalisti per il pallone d'oro. Quindi dicevamo che Salvini sul sud ha, non so se dire riconosciuto, come se ha detto: abbiamo sbagliato, l'Italia si salva intera, adesso sono straconvinto che l'Italia o si salva tutta da nord a sud o non ce n'è per nessuno, l'ha detto a RTL. Vediamo di sentire un passaggio. Probabilmente il sud lo conoscevo poco, ho fatto e abbiamo fatto degli errori. Adesso, conoscendolo, difendendolo anche a Bruxelles, a proposito di Sicilia, i parlamentari della Lega sono stati gli unici fessi che in Sicilia, che per la Sicilia hanno votato per difendere l'agricoltura siciliana contro l'accordo di libero scambio col Marocco, che sta massacrando la nostra agricoltura e la nostra pesca. Quindi nei fatti noi abbiamo difeso certe identità senza neanche esserci. E poi adesso mi sono convinto, sono straconvinto che l'Italia o si salva tutta da nord a sud oppure non ce n'è per nessuno. In una situazione economica come questa l'emergenza è nazionale, l'emergenza di disoccupazione è tale a Milano, ma è tale a Taranto, a Lecce e a Catania. C'è stata quindi come un'evoluzione o un'involuzione, a seconda dei punti di vista, del percorso della Lega Nord, forse della sua identità, della sua mission, come si dice, dei suoi obiettivi. Lo chiedo a Gianluca Passarelli, che saluto, buonasera. Buonasera a lei e ai radioascoltatori di Radio 24. Che è ricercatore in scienze politiche e politica comparata all'Università La Sapienza di Roma, è autore soprattutto di un libro che si intitola Lega e Padania, del Mulino, insieme a Dario Tuorto. Quindi lei, che conosce bene quello di cui stiamo parlando, che conosce bene la Lega, la sua storia, che cosa è successo? Dove è finita la Padania? Dove è finito i terroni, il sud, visto come una zavorra da staccare, come da una mongolfiera? Beh, la Padania, se mi consente, non è mai iniziata, perché è un luogo ideale, appunto, di chi crede in quel movimento, ma non esiste come elemento né geografico né etnico né identitario. Noto che Salvini lo ha notato con qualche decennio di ritardo, tutto sommato però è difficile che gli elettori possano dimenticare 35 anni di, diciamo, antimeridionalismo, per essere teneri, oppure epiteti un po' più grevi come quello che ha riportato lei. In realtà questa della conversione, dell'inversione, dell'involuzione, vedo un po' lei, è un problema, un tema ricorrente nella Lega Nord, da Bossi della Lega Lombarda in poi e della Lega Veneta, cioè questa dicotomia, questa conflittualità, a tratti dal punto di vista politico la chiamerei anche schizofrenia, cioè la Lega Nord deve risolvere un problema interno di identità, vuole essere un partito, diciamo, riformista o rivoluzionario, e quindi se vuole essere un partito riformista proverà a fare quello che sta facendo Salvini, vedremo poi con che risultati, e però se perderà probabilmente una parte rivoluzionaria nelle valli di Sondrio o del Varesotto, probabilmente non prenderanno molto bene questo cambiamento. Dopodiché dicevo che gli elettori hanno memoria, e quindi è facile dire sul sud abbiamo sbagliato dopo 35 anni in cui si diceva che il sud era una zavorra, e rilancerei forse, come dire, a destra di Salvini. Probabilmente il sud è stato, per alcuni aspetti, una parte di esso è stato ed è ancora oggi una zavorra, quindi ci vuole un approccio laico, e il sud può essere una risorsa, può essere una zavorra, come può esserlo una parte del nord. Quindi per fare una completa opera di cambiamento bisognerebbe prima che il partito cambiasse nome, perché non può continuare a chiamarsi. Non è escluso da quello che vedevo, dalle cose che diceva Salvini, cioè certo, avvicinandoci al sud probabilmente non ci chiameremo più Lega Nord, però le leggo giusto qualche messaggio, tanto per sentire un po' il polso, sì, certo, dell'ascoltatrice, certo, degli ascoltatori. Per esempio c'è Giorgio da Impera che dice: per me Salvini ha fatto bene perché bisogna andare contro l'illegalità, l'immigrazione clandestina. Poi un altro ascoltatore: Salvini è l'unico che parla dei veri problemi dell'Italia e ne è giusto che ne parli. Mentre Vittorio Dice: grandissimo Ruffiano, ha capito che lo zingaro come nemico immaginario dei disperati tira più del terrone, si affretta a ricompilare le caselline bianche del suo nulla politico, in realtà dice le stesse cose precise cambiando solo qualche farfugliata terminologia, personaggio comunque sia modestissimo. Dice Corrado: solo un popolo di dabbenoni rabbiosi ed ignoranti può ancora credere nelle fanfeluche dei leghisti. Un altro ascoltatore dice: viva finalmente Salvini. Claudio dice: mi sto chiedendo perché l'ha detto, per lui è il momento di cambiare col suo pensiero innovativo, ma il Mezzogiorno non credo che la prenderà bene. Insomma, vari punti di vista. Michele: populismo per creare una nuova destra e accaparrare voti anche al sud. Ma la Lega da qualche anno, dopo diciamo la dipartita politica di Bossi e del suo cerchio magico in maniera abbastanza ignominiosa, la Lega ha tentato di nazionalizzarsi nella misura in cui ha puntato a rendere evidenti alcuni temi che non erano più quelli della Padania del Nord, perché non erano in grado di rappresentare quel progetto di indipendenza voluto agli inizi dalla Lega Nord, almeno fino al 97-98, e quindi puntare a, già Maroni nel 2013 nelle elezioni lo sottolineò, prima il Nord, no? Quindi non più solo un aspetto identitario, ma il lavoro. C'è la crisi economica dal 2008, ricordo c'è poi il 2001, cioè prima il 2001 con l'attacco alle Torri Gemelle, quindi la Lega Nord da partito laico, da partito ateo e anticlericale si trasforma in partito paladino della cristianità. Ricordiamo le offese molto gravi alla curia romana, e dopodiché dopo il 2001 il partito diventa un partito in difesa della cristianità, ma in chiave anti-islamica, anti-invasione da parte degli immigrati. Quindi punta a nazionalizzarsi, a nazionalizzando alcune issues, alcuni temi, quindi il lavoro e soprattutto la sicurezza, quella che diciamo in generale viene chiamata ossessione sicuritaria, no? E in questo senso tenta di avvicinarsi al Front National, però farei notare se ho qualche di Marine Le Pen in Francia, no? Sì, diceva, sì. Al Front National di Marine Le Pen, però attenzione, io leggo con un po' di preoccupazione che i due partiti sarebbero simili. Beh, in realtà così non è, nonostante gli ammicamenti di Marine Le Pen per Matteo Salvini, perché il Front National, che nasce alla fine degli anni Ottanta proprio su questi temi dell'immigrazione, gli immigrati di seconda generazione che venivano dalle colonie francesi, è innanzitutto un partito nazionale, mentre la Lega Nord è un partito regionale o territoriale, e soprattutto un partito nazionalista, dove nazione ha anche una sua accezione diciamo positiva, no? Lo spirito nazionalista, mentre nel caso della Lega Nord è un partito appunto non nazionale e non nazionalista, se non nella misura in cui tentasse di rappresentare quella nazione tutta da costruire che sarebbe la Padania. Quindi c'è questo elemento, e l'altro ed è cruciale secondo me è che a differenza dell'Italia, in Francia la destra conservatrice, la destra gollista non si allea mai con l'estrema destra, non si allea mai col Front National, tanto che nel 1997 perde le elezioni a favore del socialista Jospin proprio in virtù di questa non alleanza, mentre nel caso italiano Berlusconi si allea e con la Lega Nord e con cosa che probabilmente riaccadrà, ma bisogna aspettare ancora un pochino. Professor Passarelli, io intanto la ringrazio e la saluto di questa analisi. Grazie a lei, buona serata, buon lavoro. Arrivo. Grazie professore. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora tantissimi vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche gli sms al 349-238-6666, ma vi dico sinteticamente le notizie principali, perché abbiamo ancora tanto da fare, con Renzi che chiede di accelerare la direzione del PD e di avere un voto per andare avanti con le riforme, così è stato. Poi il bambino vicino a Ragusa, Loris, strozzato e gettato nel fosso, conosceva l'assassino, i PM parlano di sequestro e omicidio, ma di non creare l'allarme mostro. E poi per quanto riguarda i vaccini bloccati, negativi tutti i test, si sgonfia l'allarme vaccino, la ministra Lorenzin parla di sospiro di sollievo, ma spuntano nuovi casi, l'ultimo abbiamo visto a Rimini. Europa. Europa 24 notte. parliamo di alcune delle priorità del vicepresidente della Commissione europea per il mercato unico digitale, che è Andrus Ansip, oggi a Roma nella sua prima visita ufficiale all'inizio del suo mandato. Regole comuni più efficienti, vuole meno barriere per imprese e consumatori, meno restrizioni geografiche nell'accesso ad internet, concorrenza effettiva e semplificazione degli acquisti online. Ansip ha incontrato tra gli altri la presidente della Camera Boldrini e Marianna Madia, ministra della semplificazione e della pubblica amministrazione. Alessandra Schepisi lo ha intervistato. I would like to thank Italy. Italy is, vorrei ringraziare l'Italia, working, to find consensus che sta lavorando per cercare di trovare un consenso per quanto riguarda il mercato delle telecomunicazioni unico, e credo che l'Italia stia facendo veramente un ottimo lavoro. Italy is, trying to find consensus in digital single market package. Sto cercando anche di raggiungere un accordo per quanto riguarda il pacchetto del mercato unico digitale, che è uno degli angoli, delle pietre angolari per quanto riguarda la costruzione del mercato unico digitale. We have to find a consensus in net neutrality. Dobbiamo trovare un accordo per quanto riguarda la net neutrality, per definire chiaramente quello che è, perché i nostri cittadini vorrebbero che internet continuasse ad essere aperto, vorrebbero che il traffico su internet venisse trattato allo stesso modo. Ed è per questo che è molto importante definire quello che è la net neutrality. E se non saremo in grado di farlo, il mercato digitale in ambito europeo sarà ancora più frammentato di quanto già non lo sia. E probabilmente arriveremo ad un punto in cui ci saranno 28 definizioni di net neutrality diverse. I nostri cittadini si aspettano anche che ci sia l'abolizione delle sovratariffe, dei sovrapprezzi per il roaming. E sono certo che troveremo delle soluzioni eque, giuste, sia per la società che per l'industria in questo settore, e molto presto i cittadini non dovranno più pagare delle tariffe roaming eccessive quando viaggeranno in altri paesi europei. Affronterò anche il tema dello spettro, proprio perché non è soltanto un problema tecnico. Spectrum is directly connected with accessibility, è collegato direttamente al tema dell'accessibilità verso una maggior velocità su internet. È legato al tema del Wi-Fi gratuito nei luoghi pubblici. Come sappiamo, il portafoglio del commissario all'agenda digitale Nilly Kroes è stato spacchettato. Come sta cambiando il vostro lavoro, il lavoro della commissione sull'agenda digitale? Come vi state organizzando con gli altri commissari? Digital issues, they are not only connected with gli argomenti digitali non sono soltanto legati a due commissari, Rettinger e Ansip. Now in this digital project team, they are, abbiamo questo project team digitale che vede la partecipazione di 12 commissari nelle nostre attività. Vice presidents, they are acting on behalf of the quindi i vicepresidenti agiscono a nome del presidente coordinating and steering role, ed hanno un ruolo di coordinamento e di guida. So commissioners they are mainly dealing with mentre i commissari managing si occupano soprattutto della gestione delle operazioni. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. E dall'Europa torniamo strettamente tra i nostri confini in Italia. Come si vive in Italia? C'è la nuova graduatoria del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Primo quest'anno è Ravenna, ultimo invece della classifica è Agrigento in Sicilia. Trento perde il suo primato, per tanto tempo è stata prima, però Milano risale. Allora uno si chiede, siccome giorni fa è venuto fuori che Milano è una delle città più inquinate d'Europa, chiedo a Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore, com'è possibile? Quali sono i criteri che ne fanno una città all'ottavo posto della classifica. Buonasera Roberta. Ciao. Buonasera a tutti. Ma il fatto è che noi non misuriamo solo un parametro, ne prendiamo addirittura 36. Sono 36 suddivisi in 6 grandi aree, quindi si va dal tenore di vita, poi gli affari, le dinamiche economiche, però anche i servizi offerti ai cittadini. Quindi valutiamo anche, ad esempio, se i cittadini di una provincia devono spostarsi poco o invece molto per andare a curarsi da un'altra parte. Certo. Dinamiche demografiche, altro ancora, insomma, tutto questo fa sì che Milano complessivamente sia andata meglio dell'anno scorso. Però guarda, ne abbiamo parlato lungamente anche durante il giorno, anche qui a Radio 24. Vorrei dire una cosa: quando uno sta, diciamo, nel primo ventile, per parlare un po' in statistico, cioè tra il primo e la ventesima posizione, insomma, si può dire che si vive decentemente. C'è una sensazione di benessere, dovrebbe esserci, dovrebbe corrispondere a una sensazione di benessere, e via via farei lo stesso discorso andando di ventile in ventile fino alle ultime posizioni. Cioè Agrigento purtroppo è ultima, mi dispiace per gli però non penso che a Foggia, che risulta penultima o che terz'ultima, pardon, Reggio Calabria, ci siano delle condizioni drasticamente diverse. Insomma, alla fine noi assegniamo un punteggio, i numeri possono sempre essere poco corrispondenti alla qualità della vita percepita, ma è quello che ci dicono. Quella in termini concreta di opportunità. Dimmi una cosa, Mauro Meazza, in chiusura: Crotone in Calabria, che è una delle città più povere dell'Italia, trionfa per l'ordine pubblico? Beh, trionfa per l'ordine pubblico, ma nel senso che noi valutiamo la quantità dei reati denunciati, il che è corretto, come sappiamo, entro certi limiti, perché se anziché alla denuncia subentra la rassegnazione magari nei confronti della microcriminalità, è evidente che dalla nostra statistica non può risultare, ma non abbiamo altro mezzo affidabile. Comunque domani trovate ancora sul nostro sito, anche adesso potete trovare sul nostro sito il sole24ore.com la mappa interattiva di tutta la nostra classifica. E domani un ebook con i 25 anni di qualità della vita, una specie di album di famiglia dal 1990 una ad oggi. Una marcord praticamente. Potete decidere di fare le valigie e andare in un'altra città se ritenete che lì la qualità sia migliore, no? Assolutamente, volendo. Sì, certo. Grazie Mauro Meazza. A voi. Ciao Mauro. Adesso invece la qualità della partita con Dario Ricci, il posticipo di Serie A. Dario, qual è questa qualità? Beh, direi tendente verso il basso, cara Roberta, perché finito il primo tempo, ancora 0-0 tra Sampdoria e Napoli, poche occasioni, la migliore forse al 36esimo per Higuain, che si è trovato a tu per tu con Romero, con cui tra l'altro è compagno anche nella nazionale argentina. Beh, questa volta ha avuto la meglio il portiere, perché è riuscito a soffiargli il pallone e quindi a sventare l'opportunità per i partenopei. Dario Ricci, in questo minuto e pochi secondi che ci rimane, il pallone d'oro, è vero che c'è un portiere tra i tre finalisti? Esattamente, perché si giocano il titolo, il riconoscimento, Cristiano Ronaldo che lo detiene, Messi che già ce n'ha una bella collezione a casa, e poi Manuel Neuer, il portiere del Bayern Monaco e della Germania, campione del mondo. L'evento rarissimo, perché pensa, nella storia solamente il sovietico Lev Yashin nel 63 davanti al nostro Rivera è riuscito a conquistare il pallone d'oro. Poi ci sono stati due secondi posti nel 73 di Nozov, nel 2006 Gigi Buffon, e un terzo posto nel 2002 del tedesco Oliver Kahn. Questa è in tutta la storia del pallone d'oro, tanto per capire di cosa stiamo parlando. Fai un pronostico in questi pochi secondi, questa corsa contro il tempo. Vincerà Cristiano Ronaldo, ma io tifo per Neuer, perché i portieri sono una bella razza. Lui forse perché è bello, invece Ronaldo che probabilmente ci mette anche l'immagine. Bravo anche Dario Ricci, che salutiamo. Ciao Dario, grazie, noi ci risentiamo tra poco.